mio nome sa per voi bramate, dal mio labbro e mio nome ascoltate. Io son l'indoro, da pagare il mio signore l'indoro produce in me la dolce idea dell'uomo.